Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. In questo numero di Hashtag Autotrasporti ci occupiamo dell'allarme terrorismo che coinvolge anche il mondo dell'autotrasporto, del calendario dei divieti per i mezzi pesanti, di porti tra riforma e navi sempre più grandi. In primo piano quindi l'allarme terrorismo. I mezzi pesanti impegnati sulle rotte transnazionali possono essere scelti come vettori per far circolare uomini e armi. A richiamare l'attenzione su questo fronte è Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, che ha scritto al ministro Delrio sollecitando l'adozione di strumenti di controllo più stringenti. Ascoltiamolo. In questo momento in cui tutta l'Europa sta cercando delle misure per frenare in qualche modo l'arrivo di possibili terroristi, sicuramente sapere preventivamente chi entra in Italia, da che azienda dipende, che cosa trasporta, 7 giorni prima, e poter verificare esattamente attraverso gli opportuni canali l'esattezza di queste informazioni, certamente aiuta a ridurre le possibilità che i mezzi pesanti siano uno strumento attraverso i quali arrivino in Europa dei terroristi. La seconda proposta che io lancio al Ministro dei Trasporti è di sostenere a livello comunitario la sospensione del cabotaggio, cioè la possibilità che vettori esteri possano liberamente effettuare trasporti all'interno dei paesi europei, così come ha fatto recentemente l'Austria. Utile il sistema di prenotazione: tu ti prenoti, io ti creo anche dei corridoi per poter far passare velocemente le merci attraverso dei controlli mirati e a campione, controlli evidentemente seri, e certamente non è che si sconfiggerà totalmente la possibilità di che questi signori entrino in Europa, però si crea un sistema, una rete di controllo, a mio avviso, molto, molto, molto efficace. Da oggi è pienamente operativo il portale della regolarità delle imprese di autotrasporto. Collegandosi al portale dell'automobilista, possono accedere al database anche i committenti che da questo momento sono corresponsabili di eventuali illeciti riscontrati nel corso di servizi affidati ad imprese che non risultino in regola. E veniamo ai divieti di circolazione per i mezzi pesanti nei giorni festivi. Al Ministero dei Trasporti si è svolto un incontro con i rappresentanti della categoria, nel corso del quale è stata illustrata la bozza aggiornata del calendario, uno schema che le associazioni giudicano non corrispondente alle esigenze delle imprese. I motivi sono elencati in una lettera che Anita e Unatras hanno inviato al Ministero. In linea con noi oggi c'è Cinzia Franchini, presidente di CNA FITA. Buon pomeriggio, Franchini. Buon pomeriggio a voi. Allora, cosa contiene questa bozza del calendario dei divieti e cosa non vi piace? La bozza del calendario contiene alcune proposte che noi riteniamo non soddisfacenti. Il nostro è un settore che è stato ed è ancora fortemente penalizzato, per cui noi riteniamo che non lo debba essere ulteriormente. Cosa intendo dire? Che sono state ripristinate alcune giornate di divieto, ad esempio che lo scorso anno non c'erano. Per esempio, il martedì subito dopo Pasqua, noi l'anno scorso potevamo girare liberamente, quest'anno verrebbe ripristinato un divieto e questo comporterebbe il fermo dell'autotrasporto per 5 giorni. Lei può immaginare cosa significa chiudere un'attività per 5 giorni, sono troppi. Oltre a questo, noi riteniamo che in alcuni periodi dell'anno in cui il traffico, sappiamo tutti, essere particolarmente scarso, si possa ridurre il tempo di divieto per gli autocarri. Così come ci rendiamo invece perfettamente conto che nei mesi di luglio, agosto o settembre, quando ovviamente il traffico delle auto è particolarmente intenso, questi divieti siano corretti e giusti e siamo i primi, a rispettarli. Cosa intendete per riduzione del tempo di divieto? Ma per esempio, in alcuni mesi dell'anno, gennaio, febbraio, marzo, quando il traffico automobilistico non è particolarmente intenso, noi abbiamo l'obbligo di divieto, ad esempio la domenica, dalle 8 alle 22. noi chiederemmo di far partire il divieto ad esempio alle 9. Questo ci consentirebbe quantomeno di rientrare in azienda se siamo per strada e di ottimizzare l'organizzazione del nostro lavoro. Noi, come dire, avevamo un impegno politico da parte del governo che era quello di venirci incontro per accompagnare la ripresa economica anche con un aumento della nostra produttività. Per cui chiediamo che quell'impegno politico venga rispettato. E alla vigilia dell'inverno si sta approntando anche il piano neve sulle autostrade. Pure su questo fronte avete qualcosa da suggerire? Questa è una questione ovviamente particolarmente delicata perché negli ultimi anni ci ha fortemente penalizzato. Noi abbiamo visto ai primi fiocchi di neve chiudere le autostrade e inibire il transito ai mezzi pesanti. Credo che una maggiore collaborazione anche in questo senso, e stiamo lavorando con il Ministero per far sì che non accada quello che abbiamo visto negli ultimi anni, possa aiutare tutti a lavorare meglio. La riforma dei porti è addirittura d'arrivo. Intervenendo a Genova, il ministro Graziano Del Rio ha ribadito che il testo è stato approvato. Contiene i decreti attuativi, ha detto, e dentro un paio di mesi sarà chiuso tutto. Significa quindi che con l'inizio del nuovo anno il sistema portuale avrà una nuova governance. E non solo, l'obiettivo centrale della riforma è restituire competitività agli scali italiani. A sollecitare indirettamente un cambio di rotta è la stessa Unione Europea, che ha stilato la classifica dei paesi più o meno virtuosi nella politica dei trasporti. L'Italia è 25esima, dietro di noi ci sono solo Grecia, Polonia e Romania. Addirittura siamo il paese più lento per quanto riguarda il tempo medio dell'importazione. Export via mare. Occorrono ben 18 giorni. Altra nota dolente, le strade congestionate. Ogni anno gli italiani trascorrono quasi 39 ore bloccati in coda contro la media europea che è di 31 ore. E il futuro prossimo dei traffici nel Mediterraneo e quindi dell'intero sistema logistico nazionale sarà caratterizzato dall'avvento di navi sempre più grandi. Il nostro sistema logistico è in grado di accoglierle? A Venezia si sta sperimentando un modello operativo. Su questo punto e sulle autostrade del mare abbiamo intervistato il presidente dell'autorità portuale Paolo Costa. Da questo punto di vista noi stiamo lavorando a questo sistema portuale offshore-onshore, come si dice in altura, in termini che era nato onestamente per risolvere un problema locale, non sapevamo come far entrare navi a Venezia, e oggi sta diventando invece forse lo strumento più intelligente per trattare grandi carichi in luoghi come i nostri, perché in questo momento l'autorità italiana è l'unica tagliata fuori dei traffici a 18.000 TEU. Se vede qualche nave a 18.000 TEU che passa è solo per dimostrazione, ma viene vuota, non è capace di avere il carico pieno. Per gestire questo carico occorre porsi il problema di dove deconsolidare i traffici in arrivo o consolidare alla fine il traffico in partenza. Quando parte dalla Cina, questo parte da 4-5 punti. Quando arriva qua deve andare su 100-120 punti. Si può immaginare che io scarico tutto in un punto e poi da lì mi arrangio a distribuire 10.000 autocarli in due giorni? Non esiste nessun punto italiano che sopporta una persona del genere. Bene, una piattaforma d'altura che invece innervi 4-5 punti a terra collegati in maniera intelligente con la piattaforma d'altura stessa potrebbe rendere sostenibile, anzi può rendere sostenibile il sistema. Questo è il modo in cui stiamo lavorando. Si torna a parlare di autostrade del mare, ecobonus, ora mare bonus. Oggi si possono immaginare, come dire, di utilizzare l'autostrada del mare in maniera totalmente intermodale, cioè senza far toccare strada al trailer, in questo caso anziché il container, fino a che non è arrivato quasi vicino a destinazione. Noi in questo momento stiamo sperimentando con Grimaldi un servizio, il trailer viene caricato a Patrasso in Grecia, e quindi lì si arriva col camion, monta su una nave, arriva da noi, viene spostato dalla nave a treno senza toccare terra, parte dal treno, va fino a Francoforte, trova la motrice e lo distribuisce in 200 km. Questo è come un container, solo che un container con le ruote. Quindi su percorsi in cui occorre essere veloci, in cui non si può aspettare i 15-20 giorni che si mette il container, questo diventano molto competitivo. Penso sia un futuro molto interessante, che non è più un problema solo di andare per mare anziché andare per terra, ma è di combinare mare e terra in maniera altrettanto efficiente dentro il Mediterraneo. Questa è sicuramente una formula vincente. La prossima edizione di Transpotec Logistic, la biennale organizzata da Fiera Milano, si svolgerà dal 21 al 25 febbraio 2017 alla Fiera di Verona, dove negli stessi giorni andrà in scena Samoter, il salone triennale delle macchine movimento terra. L'amministratore delegato di Fiera Milano, Corrado Peraboni. La logica che sta sotto questo accordo è quello di fare un servizio alle imprese del settore, ai visitatori di questi settori, cioè smetterla di fare guerre di campanili e dare più fiere spezzettate, ma offrire la possibilità a chi si occupa di un determinato settore di trovare i più riferimenti possibili della propria professione in un solo posto, in un solo giorno. Quindi questo è il senso di questo primo accordo tra Fiera Milano e Verona Fiere, che io spero sarà il primo di una serie di accordi tra i vari quartieri fieristici italiani per fare sistema e per essere veramente leader a livello fieristico europeo. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.